Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo venne da Gesù un lebbroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: "Se vuoi, puoi purificarmi". Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: "Lo voglio, sii purificato". E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E ammonendolo severamente, gli disse: "Guarda di non dire niente a nessuno, vai invece a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto". Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori in luoghi deserti e venivano a lui da ogni parte. Questo brano ci fa capire quanto questo lebbroso sia stato veramente stupito e talmente gioioso della sua guarigione, della sua purificazione, che non ha potuto resistere dal divulgare immediatamente la notizia della sua purificazione. Nonostante Gesù gli abbia detto di non divulgarlo, lui non è riuscito a starsi zitto. E perché Gesù gli ha detto di non divulgarlo? Perché Gesù non voleva creare subito questa aspettativa da parte della gente di ricevere i miracoli e soprattutto non voleva che la gente voleva portare gradatamente le persone a scoprire la sua persona e a scoprire in lui il Messia che era stato annunciato, ma non voleva quegli entusiasmi effimeri che vanno solo dietro ai fatti miracolosi. Ecco, tante volte noi pure cerchiamo gli eventi, grandi eventi, grandi miracoli. Però spesso ci dimentichiamo, una volta ricevuto il miracolo, ci dimentichiamo, facciamo presto a dimenticarci della bontà del Signore e facciamo presto anche a non essere grati per quanto abbiamo ricevuto. Comunque, oggi volevo soffermarmi in questa riflessione sulla purificazione di questo lebbroso. Qui si dice che il lebbroso è purificato, non si dice che è guarito, purificato. E che cosa vuol dire essere puri? Essere puri, una persona è pura quando vive soltanto per amare, soltanto per fare del bene, soltanto per Dio. Questa è la persona pura. Il vino è puro quando è solo vino, non c'è aggiunto altro. Quindi la purezza vuol dire proprio questo, vivere per Dio, vivere per il bene, vivere per prodigarsi a espandere il bene. Allora, ecco che cosa è successo a questo lebbroso. Questo lebbroso è stato purificato. La lebbra è una malattia terribile e pensate che questa malattia non solo affliggeva tantissimo il corpo, non so se sapete in che cosa consiste la lebbra. La lebbra è la mancanza di sensibilità del tatto, cioè non si ha la consapevolezza di quello che si tocca. Come la cecità è la mancanza della vista, e la sordità è la mancanza dell'udito, la lebbra è la mancanza di sensibilità al tatto. E quindi uno si ferisce, si fa male. Pensate se uno non sente, non avverte più niente. Ovviamente se tu ti bruci le dita non te ne accorgi, se tu ti tagli un dito non te ne accorgi. Ecco perché il lebbroso va soggetto a tante altre conseguenze, tanti altri mali. Inoltre il lebbroso vede la sua carne andare in putrefazione e il lebbroso manda un odore terribile, cattivo, proprio perché la sua carne va in putrefazione. Allora qui mi colpisce che Gesù vuole la purificazione di questo lebbroso e lo tocca e dice, ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: e Gesù lo tocca quando? Quando? Non quando è già purificato, ma prima ancora, quando lui è proprio lebbroso. E questo ci fa capire una cosa molto importante: come noi dobbiamo manifestare anche con i sensi, anche con tutta l'espressione della nostra, dei nostri sentimenti, ma anche del nostro corpo, come noi dobbiamo manifestare l'amore e l'affetto. Allora, oggi vogliamo fare questo proposito, farci purificare dal Signore, cioè cercare di vivere soltanto per fare il bene. Questa è la purificazione, questa è la purificazione che si deve ottenere oggi, e questo vuol dire essere liberati dalla lebbra interiore. E poi il fatto di manifestare il nostro amore anche esternamente con i sensi, cioè è importante che le persone, non solo noi le amiamo, ma le facciamo sentire amate e accolte. E per concludere vorrei leggervi questa forma sulla purezza, che dice così: noi siamo forgiati dai nostri pensieri, noi diventiamo ciò che pensiamo. Quando la mente è pura, la gioia arriva come un'ombra che non ci lascia più. Buona giornata.